italiana. Oddio, dopo dovrò usare il terminale, effettivamente avere la tastiera italiana mi fa anche comodo. Allora, siamo nel caso peggiore. Abbiamo installato il group all'inizio della partizione che abbiamo creato, avviato il computer, errore 22, cioè nulla, neanche un menu o entrare magari nella console. Si possono fare delle cose se Grub si avvia, però può capitare che non si avvia per niente. Adesso supponiamo di essere in quel caso. E dopo vedremo di risolvere casini minori quando invece siamo più fortunati e abbiamo a disposizione meno di grub. Alcune cose si possono fare. Già questo fa ben sperare. Cosa? Coraggio, Sì. se uno ha incasinato tutto. Allora, qua già fra un po' compariranno tutte le partizioni del disco sul desktop e qua possiamo andare a fare un esame di quello che ha combinato Gparted rinominando le partizioni e qua ci creiamo un ordine, magari scritto più che mentale, perché se adesso mi compaiono, ecco, allora questi indicati con, ecco, come dischi sono le varie partizioni. Ah. Cliccandoci sopra, guardo un po' i file e cerco i... Porco cane. Ah. Non avevamo bisogno di questi effetti. Allora, guardo dentro la partizione, in qualche maniera, magari guardando i miei file, sì, vedo questo file, questa è la Debian, l'altra è la Fedora. Ah sì, adesso, vedete, SDA1, SDA5, SDA9, devo vedere ogni numero a quale sistema operativo corrisponde. Quando mi sono chiare... Qui se noi utilizziamo il label per le partizioni, compare Beh, qua no. il No. Qua ho solo la situazione dei numeri delle partizioni, qual è? Ma una volta che uno abbia capito cos'è per esempio l'SDA 6, la può rinominare mettendoci in chiaro quello che c'è dentro? Cioè, riaggiustarla Se cambiandogli il rinominarlo, numero. Cambiandogli il numero. no, no, no, no. Ah. Lui abbiamo appurato che SDA 7 contiene Ubuntu, Sì. posso io ribattezzarla sotto l'icona Ubuntu? Non rinominando, cioè non posso Dove qui. c'è scritto V di. Non posso qui fare un rename, cliccare Non si può destro, fare. no, di più, non posso neanche andare a modificare i file contenuti, perché No, se io faccio un doppio clic a questo livello, leggo solo, me li apri solo a sola lettura. certo. Dunque, dopo aver fatto l'inventario, vado a vedere, ad andare a mettere le mani al file di configurazione di Grub che fa capo a quello che sta nel master boot record. Prima di tutto per mettere in ordine il master boot record e farne partire almeno una, quella con cui ho installato il Grub nel master boot record. Una ci deve essere, no? Nel mio caso GNUSense, là. Quando ho capito che è là. Adesso non me lo ricordo, è la B. La. 7, comunque. Posso intervenire solo da riga di comando, non ci sono santi, quindi mi apro o una root shell, facciamo così che è più... Comunque sempre root bisogna essere, quindi o apro una root shell oppure acquisto i permessi di root e monto, cioè devo andare ad agire, a cambiare le cose dentro il file di configurazione di quella distribuzione, di quel sistema operativo. Il file di configurazione di Grub per reinstallarlo nel master boot record. Allora devo rendermela visibile. Forse vediamo se azzecco la 7, me la devo andare a caricare. Mount, adesso non c'è niente, neanche questi sono montati. Se ci si clicca sopra queste icone li monta e li fa vedere nel file system in sola lettura. Solo come root posso montarli e andarci a cambiare le cose. Quindi da root me la monto, posso metterla mount fosse SDA7 da qualche parte, dove posso metterla? È scritto SEA. Posso metterla tipicamente in MNT, che è una directory messa là apposta per montare al volo una partizione. Se ne devo montare più di una, un posto migliore magari è la directory media, che fatalità, se apro un'altra shell cd media ls, fatalità lui crea già tante directory. Queste qua non c'è montato niente, è vuota, non è vuota in realtà, non c'è montato un tubo. LS SDA 7, però dopo che ho dato questo comando le cose cambiano. Infatti se adesso vado a ripeterlo, qualcosa c'è, ho montato la partizione. Bene, qua ci vado dentro, vado a recuperare cd sda7 buff, vado nella directory boot grub e edito. Questo è un altro editor, sempre il file di configurazione di grub, che questo deve essere quello di quello nel master boot record, per far partire almeno una distribuzione. Per capirci, ecco, non ho beccato lei. Comunque le cose che devo andare a mettere in ordine sarebbero nella prima, non ho beccato quella nel master boot record. Qua abbiamo l'UID e magari andrei a tolgo tutto l'UID e vado a mettere SDA7, dev SDA7, al posto dell'UID, così la faccio partire. Allora, vediamo un po' qual era, forse era la 5. Ci tocca un po' farlo questo inventario, perché è già montato. Allora, boot 6, groove, diamo un'occhiata al menu list di questa che è la 5. Aprimelo con un editor qualsiasi. Dai, proprio nulla. Non è possibile che non contenga niente. Ah, era questo. Ah, questa era una versione vecchia. Proviamo con un'altra. Perché SDA 5 l'ho montato? Sì, cliccandoci sopra la monta. Read only però. Abbiamo editor, non so. Il file non è leggibile. Sei in sola scrittura? Eh? Sei in sola lettura, cioè? Sono in sola lettura. Rimontalo ReadWrite. Ma dovrebbe permettermi di leggerlo. Di leggerlo? Leggerlo sì, ma è che Emacs probabilmente vuole andare a scrivere un file temporaneo e vede che non riesce a scrivere, allora dice di solo non riesce a leggerlo. Però fa del cut. Però a cut sì, dovete fare. Un cazzo ma sempre lo si legge. Colleghi, dove sono? No, perché potenzialmente lo modifica. No, di salvare, ma non permette di salvare di solito. No, ma secondo me è che poi fai temporaneo. È sempre fai temporaneo. Qua se faccio un LS. Va CD. Boot. Group menu. Ah. Adesso c'è